Questo succede perché una tessera di partito conta più dello Stato. Non vi era volta che venisse a Roma della Chiesa che non andasse a lamentarsi da Bettino Craxi. Chi aveva troppa consuetudine con Craxi era considerato male a Piazza del Gesù. Per dalla Chiesa finalmente il 20 agosto arriva un segnale concreto dal Ministero degli Interni. Dalla Chiesa finalmente ce l'ha fatta. Adesso è pronto per iniziare la guerra alla mafia, ma la mafia ha già deciso. Dalla Chiesa deve morire. E allora non c'è più tempo. È venerdì 3 settembre dell'82, sono le 21:15. In un agguato è stato assassinato il prefetto di Palermo, generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Hanno perso la vita anche la giovane moglie del generale e un agente di scorta. Giuseppe Sottile, giornalista, responsabile dell'inserto culturale del Sabato del Foglio e direttore di Live Sicilia. Omicidio Mattarella, poi Pio La Torre e dopo qualche mese tocca al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Lei era a Palermo in quel momento. Che clima c'era? Sì, io ero il caporedattore del Giornale di Sicilia. C'era ovviamente il clima pesantissimo, c'era una sorta di stordimento della città perché non si capiva da dove venissero questi colpi di lupare, questi omicidi eccellenti, cominciammo a chiamarli così proprio noi, perché Mattarella, La Torre e poi questo clamoroso Dalla Chiesa con la giovane moglie, proprio falciato da una raffica di mitra. Quindi era un clima di smarrimento, tutti cercavamo di capire che cosa stesse succedendo, perché la mafia avesse scelto la linea del terrore, proprio del terrore mafioso. La città di Palermo in fondo se lo aspettava? Non lo so se l'aspettasse. Dicevo di uno stordimento generale che non riusciva a, dal quale la città non riusciva a riprendersi, perché appunto cominciò a temere la cosiddetta escalation, che a un omicidio ne seguisse un altro, fino infatti alle stragi del 92. È vero che il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa è stato lasciato solo? Ma secondo me sì. Certo, anche lui ha fatto all'inizio qualche errore, perché è venuto lì ma non aveva grandi poteri, e questa è già una prima cosa. La seconda cosa è che lui scelse nell'immediato degli obiettivi che sembrarono inadeguati, per esempio si impuntò sui venditori ambulanti abusivi che vendevano il pane senza alcuna misura igienica. Certo, una grande, come direbbe Benigni, una grande piaga della città. Però, insomma, però non credo che fosse, ecco, la piaga principale. Comunque, purtroppo in questi casi bisogna sempre giudicare dagli effetti se la mafia ha deciso di ucciderlo. Certo, la mafia lo temeva, perché un omicidio gratis la mafia non lo fa mai, non lo compie mai. Qual è l'eredità che Dalla Chiesa lascia a Palermo? Beh, un'eredità di, come dire, dello Stato che ci prova a piegare il nemico, ma al tempo stesso di uno Stato impacciato, perché, ripeto, lui non aveva tutti i poteri per intervenire in maniera agile e decisa. Giuseppe Sottile, lei ha condotto la regia dello spettacolo di Pietrangelo Buttafuoco, sì, Buttanissima sì. Sicilia, tratto dal libro di Pietrangelo. Sì. Un grande successo sabato scorso al Biondo a Palermo. Ve lo aspettavate? No, un successo di queste dimensioni non ce l'aspettavamo, però direi che il terreno era stato sufficientemente arato. Il libro di Buttafuoco, di Pietrangelo, è stato veramente un fatto non solo editoriale ma anche e soprattutto politico, perché si è rivolto ed ha fatto presa nella borghesia sana che ha queste come dire, esibizioni ciarlatane di Crocetta e della sua corte certamente non perdona nulla. Perché questo spettacolo? Perché la città aveva bisogno di una scossa, di svegliarsi, di riappropriarsi di un suo linguaggio, dopo tanti anni di cupezze, di affrontare tramite la satira, lo sberleffo, il disincanto, di svelare appunto le tante imposture politiche che stanno umiliando la Sicilia. Ecco, com'è cambiata la Sicilia rispetto a quel tragico 1982? Beh, che sia cambiato, no. Certo, non c'è appunto la cupezza di quegli anni, però c'è molta rassegnazione. Questo spettacolo, questo libro di Buttafuoco, vuole appunto sgombrare il terreno da questa rassegnazione e introdurre un discorso nuovo, pulito. Ora sì che ci vuole, rivoluzionario. Grazie Giuseppe Sottile.